il pagamento di tutto quello che si è accumulato nel tempo, perché qui stiamo parlando di debiti che negli anni sono stati messi da parte, mi lasci dire, nascosti, perché siccome i debiti commerciali non rientravano nel debito pubblico, li si lasciava lì e quindi si poteva non calcolarli come il debito pubblico. Io credo che anche in Europa vada inserita la regola che i debiti commerciali sono debiti come tutti gli altri. Comunque, oltre a non farne di nuovi, e questo succede attraverso la direttiva europea che abbiamo adottato, bisogna smaltire il passato, e questo va fatto più velocemente. Non saranno qualche decina di miliardi di emissioni in più che cambieranno il nostro debito pubblico, mentre rimettere in moto nell'economia queste decine di miliardi può fare la differenza, perché ci sono aziende che con i tassi che oggi si sono raggiunti sul credito sono effettivamente ammazzati, ma non solo finanziariamente, anche economicamente da questo credito che quindi lei dice, nuove emissioni di BTP sostanzialmente o BOT finalizzate a questo. Parte può essere questo, poi altre parti potremmo, naturalmente sarà graduato nel tempo, però va fatto con più determinazione. Possiamo anche inventarci dei modi per utilizzare degli attivi pubblici e in parte utilizzare i proventi per fare questi pagamenti, però non c'è dubbio che bisogna accelerare. La pressione e il disagio profondo di tante aziende non può essere più ignorato. Aggiungo, perché è una cosa importante, che lo scaduto delle piccole e medie imprese in parte viene dalla pubblica amministrazione, in parte viene dai non pagamenti in tempo anche di altre imprese. Quindi è molto importante che se si vuole risolvere il problema si porti a normalità anche il flusso dei pagamenti tra le imprese, tra di loro, soprattutto tra le grandi nei confronti delle piccole. Sì, anche perché c'è stata un'accelerazione nei ritardi dei pagamenti, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono dati CERVED, siamo arrivati ad un 7% di ritardi nell'ultimo trimestre del 2012. Ma pensa, Ministro, che come governo uscente da questo lato voi possiate fare ancora qualcosa o bisognerà, o le imprese dovranno attendere un'uscita da questa situazione politica della quale non vediamo... Non vediamo il limite, se non sappiamo quando ne usciremo. Ma ecco, innanzitutto auguriamoci che dalla situazione di stallo nella quale siamo si esca velocemente. Il Parlamento ha il dovere di dare al Paese un governo, di eliminare questa enorme incertezza che oggi grava sul nostro Paese e che ci costa da tanti punti di vista, non solo in termini di credibilità ma anche poi di costo del nostro credito in giro per il mondo. Guardi, non posso parlare a nome ovviamente di tutto il governo e insisterò perché si possa anche fare qualcosa in questa coda di nostro governo, però certamente il ripagamento dei debiti nei confronti dei fornitori della pubblica amministrazione deve stare al primo posto del programma di qualsiasi governo che verrà. Quindi abbiamo il suo impegno, ci proverà a far qualcosa. Sì. Voglio portarla, poi la lasciamo perché sappiamo che ha pochi minuti, su un'altra questione che è il problema del credito. Tra l'altro lei, insomma, in un passato nemmeno troppo lontano, insomma, è stato alla guida di una grande banca. Si parla, ieri titolava nei giorni scorsi il Sole 24 Ore, 37 miliardi in meno di credito, un'ulteriore stretta sostanzialmente dovuta alla crescita delle sofferenze che sono a tante cose, però lo spiego per gli ascoltatori. Innanzitutto, quando si parla di sofferenze in Cagli si parla dei crediti, diciamo così, difficilmente o per nulla esigibili da parte delle banche, insomma, che sono in crescita. È dovuto a molti motivi, diceva Ministro, quali? Ma certamente quello che lei menziona è una ragione importante, il fatto che si siano accumulati oltre 200 miliardi di debiti di difficile riscossione da parte delle banche è qualcosa che naturalmente frena la nuova erogazione. Le norme sempre più stringenti e secondo me eccessivamente stringenti che sono state inserite proprio in questa fase di ciclo debole dell'economia sul tema delle garanzie, sul tema del rating, cioè si sono assommate regole che oggi veramente rendono difficile fare credito soprattutto al mondo delle piccole e medie imprese. Poi non è che tutte le banche non fanno credito, c'è chi ne fa di più, c'è chi ne fa di meno. Io una delle cose che mi vanto del mio periodo di banchiere è che non c'è mai stato un anno di riduzione del credito in volumi assoluti nei confronti delle piccole e medie imprese. Però certamente quello del credito è un problema sentito da moltissime aziende, non da tutte, perché poi naturalmente quando andiamo nei dati vediamo che ci sono fortunatamente una bella percentuale di aziende che hanno un'attività normale, ce lo dicono anche le associazioni delle imprese. Cosa abbiamo fatto lì per favorire perlomeno la gestione della crisi? I 20 miliardi che abbiamo messo di garanzie attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per rendere possibile alle piccole e medie imprese il ricorso al credito sta dando risultato, 61.000 aziende l'anno scorso l'hanno utilizzato. Il fatto di pagare adesso l'IVA solo quando si incassano i propri crediti è un qualche cosa, la famosa IVA per cassa, sì, è qualcosa che ha alleviato la pressione finanziaria. Però la interrompo, Ministro, perché l'impressione è che anche qua ci voglia una soluzione shock. Mediobanca l'altro giorno parlava della possibilità di creare una bad bank, traduzione molto semplice, cattiva banca, nella quale mettere appunto questi incagli e queste sofferenze e consentire appunto alle banche di respirare dal lato dei criteri patrimoniali così stringenti dei quali lei parlava. Lei che cosa ne pensa? Allora, ci sono tanti modelli di bad bank, ma in generale io non la vedo come una necessità per il sistema bancario italiano, avrebbe tutta una serie di implicazioni molto negative, una serie enorme di difficoltà realizzative. No, io non la vedo come uno strumento da utilizzare. Le ultime due domande che le voglio fare, Ministro, riguardano la prima una cosa di stretta attualità ed è di ieri, la vicenda Bridgestone. È arrivato, per quanto riguarda quella fabbrica, è stato tolto, eliminato l'aggettivo irrevocabile dalla parola. Eliminato, abbiamo chiesto di eliminarlo e siamo stati sufficientemente convincenti e alla mia richiesta la risposta è stata responsabilmente da parte dell'azienda un sì, rinunciamo all'irrevocabile. Che prospettive vede da quel lato, Ministro? È una situazione non facile, quella dei pneumatici in Europa è una situazione che in tanti paesi ha già portato molte chiusure, a molte riduzioni, però prima di decidere di chiudere uno stabilimento che da 50 anni è un pezzo importante dell'economia pugliese, abbiamo concordato tutti, azienda, amministrazioni locali e ministero, di esperire tutte le possibilità per renderlo concorrenziale e per giustificarne la sopravvivenza. Quindi ci metteremo tutti a trovare le ragioni per compensare quelle che hanno portato l'azienda invece a decidere l'opposto. Ultima domanda che le faccio è un po' sul filo della politica, Ministro, perché ci sta. C'è chi dice che l'Italia è di fatto già fuori dall'euro, mi riferisco naturalmente. Ma non diciamo sciocchezze. Cioè, l'Italia è pienamente nell'euro, se tutti avessero i conti sotto controllo come l'Italia non ci sarebbe neanche un problema euro, quindi chi dice cose di questo genere veramente non sa di quel che parla. Ultima domanda, auspici da questo nuovo Parlamento? A me, insomma, Ministro, io ci provo a chiederglielo, poi lei decide se mi risponde. Secondo lei si torna a votare presto? No, si deve pretendere dal Parlamento che si formi un governo, e un governo capace di gestire questa fase. Certamente la situazione del Senato è una situazione dove oggettivamente è impensabile ad oggi un governo di una maggioranza di legislatura, però oggi abbiamo il dovere di dare al Paese situazione stabile per gestire le prossime settimane e mesi che non saranno facili. Grazie al Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera per essere stato con noi e buona giornata. Saluto le vostre telefonate all'800 24 00 24, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Saluto Antonio Gennari, direttore del Centro Studi dell'ANCE, buongiorno. Buongiorno. E vice direttore generale anche, sì. L'ANCE, l'associazione dei costruttori, è tra i settori, anzi forse è il settore che ha sofferto in maniera più intensa questa crisi nel suo complesso, poi no, nei singoli settori ci sono aziende o parte di questi settori che hanno sofferto moltissimo, però a livello generale sicuramente quello dei costruttori è quello che ha sofferto di più. Si sta parlando in queste ore della possibilità di sforamento del patto di stabilità per pagare i debiti alle aziende. Lei, voi naturalmente siete d'accordo, vi state raccordando su questo? Ma tanto buongiorno a tutti. Non è tanto il fatto di sforare, il problema è di trovare una soluzione che, come ANCI, abbiamo sollevato ormai da più anni. Voglio solo ricordare la manifestazione del D-Day di maggio scorso, dove denunciamo la situazione veramente difficile dei ritardati pagamenti e l'impatto sulle imprese. Sono già 10.000 le imprese che sono fallite nel settore dall'inizio della crisi e la caduta dell'occupazione è di 360.000 fino adesso, della disoccupazione del settore, e 550.000 con tutto l'indotto, perché il settore delle costruzioni ha una filiera lunga, ha rapporti con più di 80 settori economici. Quindi se la pubblica amministrazione non paga le imprese che hanno realizzato lavori per la pubblica amministrazione, le difficoltà ricadono direttamente sulle imprese che realizzano lavori, ma per tutta la filiera che è fornitrice di questo settore. Ma noi abbiamo fatto una proposta molto chiara, abbiamo mandato al governo un position paper insieme a tutte le associazioni della filiera delle costruzioni per trovare una soluzione. E abbiamo studiato quali sono i provvedimenti adottati e le soluzioni adottate negli altri paesi. In Spagna, lo citava lei all'inizio della trasmissione, la Spagna ha adottato provvedimenti simili ai nostri in termini di certificazione del credito, però in 5 mesi ha pagato 27 miliardi alle imprese creditrici della pubblica amministrazione. Noi in 8 mesi risultano pagati 3 milioni, cioè una cosa molto limitata. Naturalmente limitata. Ma qual è la differenza su cui noi insistiamo? Nel provvedimento del Fiscal Compact è previsto, che è quel provvedimento che impone agli Stati membri europei di un rientro dal punto di vista dell'equilibrio della finanza pubblica, questo Fiscal Compact al netto di misure una tantum, cioè i Paesi membri possono negoziare con la Unione Europea provvedimenti specifici, straordinari e non quindi sistematici nel tempo, una tantum, per trovare una soluzione. Nel caso della Spagna ha adottato un provvedimento una tantum che ha permesso quindi alla Spagna di pagare questi debiti nei confronti delle imprese. Che significa? Che se il provvedimento, la Spagna ha quindi negoziato con l'Unione Europea la possibilità per i pagamenti di uscire fuori dal patto di stabilità interno. Perché quello che è successo in Italia è che se si fanno i certificati di pagamento e si certificano i crediti nei confronti delle imprese creditrici, ma poi le amministrazioni, parliamo soprattutto dei comuni e delle province, non possono pagare perché c'è il blocco del patto di stabilità interno, tutto questo viene vanificato. Certo, e anche le certificazioni dei crediti per andare a scontare in banca, se per esempio gli enti locali non possono mettere una data in cui si impegnano a pagare perché il patto gli impone una difficoltà di programmazione dei propri pagamenti, automaticamente l'operazione di anticipo di cassa da parte delle banche meglio operazioni di prosoluto sono non realizzabili, perché la banca dice io ti do dei prestiti ma voglio sapere quando l'amministrazione paga. Quindi il problema, se non si risolve a monte il patto di stabilità e la possibilità non tanto di sforare come se ci fosse una violazione della regola, che questo è lei dice, Gennari, negoziare con l'Unione Europea un una tantum esattamente come ha fatto la Spagna e ragionare appunto su una possibilità di sforamento del patto di stabilità interno, che lo ricordiamo è questa sorta di camicia di forza che tiene imprigionati gli enti locali, anche quelli che hanno i conti a posto e che quindi non possono pagare le imprese, non possono nemmeno, al di là della questione delle imprese, non possono nemmeno fare welfare, tanto per fare un esempio. 9 in punto. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Ludovico ci chiama da Brescia, buongiorno. Pronto Ludovico? Prego. Sì, mi sente? Sì, la sento. Sì. Allora, io sono titolare di una certificazione emanata da un ente pubblico, una provincia del nord Italia, che non reca la data e cado esattamente nella situazione in cui il vostro ospite prima recitava. E cioè è una certificazione assolutamente inutilizzabile, perché senza data non è scontabile e non ha nessuna bancabilità. Ma come mai gliel'hanno fatta senza data? Ludovico, come mai gliel'hanno fatta senza data? Non lo so. Evidentemente è possibile fare le certificazioni di credito. Io sono logato sul sito, ho chiesto, l'ente ha emanato la certificazione dove c'è scritto, dove c'è il posto della data, questa non è scritta. Mi permetto però di fare un'osservazione a quanto diceva prima il ministro. Prego. E cioè, la situazione non solo in questo ultimo anno non è migliorata, ma è peggiorata, perché gli enti, nonostante ci sia il patto di stabilità, continuano a far gare e a fare ordini alle aziende che vincono le gare, pur sapendo di non poterle pagare. Ora io mi chiedo, non dico di far pagare a chi fa queste operazioni, il fio di questa operazione è fondamentalmente scorretta, ma il patto di stabilità finché esiste non vedo perché l'ente faccia la gara e coinvolga imprese che poi non può pagare. Il punto è chiaro. Luca Zaia, presidente del Veneto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ha sentito, anche l'ascoltatore ci parlava del patto di stabilità, interno, si diceva insomma prima della pausa, questa sorta di camicia di forza che impedisce anche agli enti locali virtuosi di tirar fuori qualche soldo per le imprese, ma anche magari per qualche intervento di welfare, non solo per le aziende, intendo insomma, appunto anche per i lavoratori e così via. Lei ha detto sforiamo, ci mandassero l'esercito, no? Ma guardi, io dico innanzitutto che il patto di stabilità è un'invenzione tutta italiana. L'Europa ha detto agli Stati membri puntate al pareggio di bilancio. Siccome noi abbiamo mezza Italia che è ormai in fallimento tecnico, da consegna dei libri in tribunale, hanno pensato bene a questa nuova formula che si chiama patto di stabilità, che non è altro che un'equa condivisione del malessere. E la mia regione ha 1.300 milioni di euro più o meno bloccati, ce li abbiamo cash, cioè soldi pronti per pagare fatture, bloccati dal patto di stabilità, abbiamo un tempo medio di pagamento di 429 giorni e abbiamo 60 imprenditori che si sono suicidati. Per l'amor di Dio, non si sono suicidati perché avanzano soldi dalla regione. Però altrettanto è vero che 1.300 miliardi della regione, piuttosto che centinaia di milioni dei 581 comuni veneti, immessi nel circuito dell'economia, sicuramente creano dei vantaggi che oggi non riusciamo a dar sfogo ai tanti bisogni dei cittadini e delle imprese. E quindi vorrei capire che cosa intendete fare, che cosa intende fare, perché insomma ci diceva poco fa Antonio Gennari, che è il direttore del Centro Studi dell'Ancia, che tra l'altro è ancora al telefono, dice qua bisogna provare a negoziare con l'Europa qualcosa di speciale, come per esempio ha fatto la Spagna, e partire da là, insomma, negoziare una sorta di una tantum con l'Europa. A me sembra che non ci sia molta voglia di negoziare con l'Europa, né dalle vostre parti, né da quella dei comuni. Ma guardi, io lo sto dicendo da mesi, se si sfonda il patto di stabilità da soli, cioè la regione da sola, o qualche comune da solo, abbiamo degli esempi, che so, il comune di Cremona, ne cito uno, ho visto anche degli articoli, delle sentenze, finisce che ti tagliano i trasferimenti, cioè ti tolgono soldi e mandano in crisi la macchina amministrativa, non riesce più a dare soldi per i disabili, la sanità o quant'altro. E oltretutto adesso c'è questa novità che sta diventando elemento anche giuridico, che ti accusano, cioè l'amministratore verrebbe accusato di danno erariale. Se questo lo fai da solo, ma io immagino che se lo fa la Regione del Veneto con i 581 comuni, lo fa la Lombardia con i 1.500 e così via, per questo ho detto non ti possono mandare i carri armati, a questo punto diventa veramente una contrapposizione. E quindi se da soli si fa prima, assieme direi che si fa molta più strada, quindi io sono assolutamente condivido la strategia dell'ANCI di Del Rio e penso che le regioni debbano essere anche loro schieratissime con i comuni per sfondare il patto di stabilità. Ma siete pronti a farlo, Zaia, insieme immagino a Maroni e Cota, perché insomma parlava di tre regioni, immagino si riferisca a quelle governate dalla Lega, insomma, no? Noi siamo pronti a farlo, ma ovviamente in gruppo, nel senso che ci vogliono le amministrazioni locali al nostro fianco, e dico ovviamente dopo una obbligatoria trattativa rispetto a un allentamento del patto. Ha ragione Del Rio quando dice se non ci sono segnali sfondiamo il patto, perché comunque un ultimo appello lo diamo. Poi dico anche, lei ha parlato di Europa, io ci sono andato 3 anni in Consiglio dei Ministri in Europa, vi lascio perdere la Babele e il casino che c'è lì in Europa, perché veramente a noi fanno vedere un film che non esiste. Però abbiamo un Presidente del Consiglio che ha ritenuto uno dei più autorevoli esponenti che l'Europa riconosce, avrebbe dovuto trattare questo patto di stabilità già un anno fa, visto e considerato che è da un anno che fa il Presidente del Consiglio. Antonio, dalla provincia di Chieti, che in realtà leggo nelle cose che mi segnalano che è un amministratore locale. Buongiorno. Buongiorno, vicepresidente con delega ai lavori pubblici. Di cosa? Della provincia di Chieti, appunto. Della provincia di Chieti, sì. No, vi racconto solo una piccolissima esperienza. Noi siamo a rischio sforamento patto di stabilità, che come è noto verrà certificato entro la fine di questo mese. Le uniche conseguenze che oggi noi ci apprestiamo a vivere sono quelle di bloccare le assunzioni, bloccare i centri per l'impiego, amministratori con indennità ridotta del 30%, lo Stato che ci trasferisce meno risorse uguali allo sforamento del patto. Da premettere che lo sforamento del patto sta avvenendo perché si è ritenuto di dover andare incontro alle esigenze di imprese che pur avendo noi e loro certificato i loro crediti non siamo riusciti a onorare dopo 12 mesi, quindi questo è un cane che si morde la coda, credo che quello che ha detto... Cioè in sostanza, mi scusi, avete provato a pagarle le aziende, la metto molto brutale, avete sforato... Molto casualmente le abbiamo pagate, stiamo rischiando di sforare il patto e oggi... Magari siamo riusciti a salvare 3 imprese della nostra provincia, ma di fatti abbiamo affossato definitivamente l'ente e i servizi essenziali, per esempio dico quelli dei centri per l'impiego, che oggi sono servizi vitali, non permettendoci oggi lo Stato a noi di utilizzare risorse europee per assumere personale. Siamo alla follia. La tengo qua in diretta, allora, rimanga con noi quindi, e poi ci dice anche il cognome a questo punto, perché la teniamo anche come ospite, e sentiamo qualche altro ascoltatore. Alessandro ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Io sono un imprenditore da 20 anni in un settore in grande sviluppo che è il settore ecologico, la depurazione dell'aria. Lavoriamo in tutto il mondo, quando dico tutto il mondo, lì dal Pakistan al Sud America, al Sud Africa, ovunque. Impieghiamo 40 persone e siamo una delle realtà italiane che esportano know-how, esportano tecnologia, potrei dire senza concorrenti nel mondo, perlomeno tra l'elite dei concorrenti nel mondo, ma abbiamo assolutamente qualche cosa di italiano che portiamo all'estero. Non lavoriamo con il pubblico perché lavoriamo con le industrie, quindi sposto un attimo l'argomento che si sta sviluppando nella trasmissione, che non sono il governo, i governi che non mi pagano, però siamo seduti su una polveriera, un'azienda che in 20 anni è cresciuta, ha fatto cose molto belle, tutto, oggi è seduto su una polveriera. Perché? Perché quello che è stato il governo in senso la gestione della cosa pubblica in questi anni, ha permesso e ha creato una degenerazione dei costumi a dei livelli anche più bassi. Oggi le singole aziende, ogni azienda si sente autorizzata ad assumere dei comportamenti che 20 anni, 30 anni fa non avrebbero mai fatto. Noi abbiamo sempre lasciato la più parte degli utili nell'azienda patrimonializzandola. Ma ad oggi, appena un imprenditore vede che le cose non vanno molto bene, studia un sistema per fare un drastico taglio dei costi, per chiedere un concordato, non pagare più i fornitori, ma per salvaguardare l'impiego di alcune persone, la continuità, riparte con una nuova virginità, sì, il giorno dopo. Sì, Alessandro, mi faccia dire proprio a lei, che è un imprenditore, che non è che possiamo generalizzare da questo lato. Antonio Gennari, direttore del Centro Studi dell'ANCE, brevemente, poi abbiamo una pausa per la viabilità e poi voglio ritornare da Zaia, sempre su questi temi là, anche per fargli commentare quello che ci ha detto Antonio Tavani, appunto, il vicepresidente della provincia di Chieti. Gennari, il tema è anche, come in parte faceva notare l'ascoltatore Alessandro, sono i pagamenti tra le aziende, insomma. Qua l'impressione, però questo è un po' una l'impressione catena, eh? Esatto, l'impressione, scusi se uso questa espressione, è che stia svaccando un po' tutto, nel senso, lo Stato non è una situazione devastante, ma se l'amministrazione non paga l'impresa che ha il contratto con la pubblica amministrazione, è chiaro che a catena non riesce a pagare i fornitori, quindi l'effetto è moltiplicativo. Ma la testimonianza che ha fatto il presidente Zaia e anche l'amministratore di Chieti dice l'assurdità di questo patto di stabilità. I nostri dati, visti anche con l'ANCI, sono 4 miliardi e 7 nelle casse dei comuni, cash per pagare le imprese, non lo possono fare. Cioè, c'è una situazione addirittura, diciamo, surreale. Ecco, quello che noi chiediamo, l'altro giorno il presidente Buzzetti insieme al presidente dell'IO dell'ANCI ha fatto un appello al presidente del Consiglio a intervenire in Europa e provvedere subito con un decreto che rompi questa catena infernale, perché le imprese stanno morendo, le amministrazioni si trovano in quel dilemma che diceva l'amministratore di Chieti, di se io pago un'impresa poi faccio pagare alla mia comunità dei danni grossi. Il problema è che la Spagna l'ha fatto, sta in una situazione finanziaria complessiva, anche di finanza pubblica, peggiore dell'Italia. Sembra assolutamente incredibile che in Italia non si riesca a trovare una soluzione spagnola. Sì. Cioè, pagare 27 miliardi 5 mesi e 3 milioni in Italia in 8 mesi la dice lunga. Le aggiungo tra l'altro Gennari, che in realtà, seppure sono soldi che non vengono calcolati a livello di debito pubblico in Europa o di deficit in Europa, i mercati li calcolano, cioè gli analisti, quando stanno là a conteggiare il nostro debito pubblico, questi soldi li mettono dentro nel conto e quindi a livello di mercato cambia poco o nulla. 9 in punto. Oh, vedo che stiamo raccogliendo tra gli ascoltatori una serie di amministratori locali e quindi ci ha chiamato, non l'abbiamo chiamato noi, ci ha chiamato lui, Silvano Piazza, che sindaco del Partito Democratico di Silea, provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Due cose. La prima è che... Breve, mi raccomando, che abbiamo poco tempo. Breve. Sì. Primo, sostengo la linea di Zaia, che anche se è della Lega, io sono del PD, ritengo che alla fine bisogna prendere una decisione assieme. Per cui noi difendiamo le nostre amministrazioni e le nostre amministrazioni sono prese talmente male che bisogna far fronte comune. E spiego un po' il caso di Silea, ma che potrebbe essere quello di circa la metà dei comuni del Veneto. Versa Silea 40 milioni di euro all'anno allo Stato, all'erario. Quest'anno non avremo nemmeno un centesimo di queste tasse di IRPEF, IVA a vario titolo, ma addirittura lo Stato ci chiede indietro dell'IMU sulla prima casa, sugli edifici e sulla TARES 750.000 euro. Allora io mi chiedo se è possibile che il 100% delle tasse vadano a Roma e non ritorni indietro nulla, ma addirittura ci chiede anche i 750.000 euro. Cioè ci chieda una parte, un terzo delle tasse locali sull'IMU. Questo è uno Stato equo, cioè si può parlare di equità, di omogeneità nel territorio italiano. Zaia, la invito a nozze con questa telefonata, direi. No? Sì, ma poi ci conosciamo perché siamo a Treviso e siamo stati spesso anche su sponde opposte su tante questioni. Ma il problema è... Si fermi Piazza, voglio sentire Zaia a questo punto. Ma guardi, è la dimostrazione che i veneti, come al solito, sanno fare squadra, perché poi le difficoltà della nostra gente non hanno colore politico. ha ragione il sindaco Piazza, perché se io cito il dato della regione, noi lasciamo, siamo una delle tre regioni con residuo fiscale attivo, lasciamo 18 miliardi di tasse l'anno a Roma, e se Roma avesse il coraggio di applicare i costi della pubblica amministrazione del Veneto a tutta Italia, avrebbe un risparmio annuale di 30 miliardi di euro, che è più di un terzo dell'interesse sul debito pubblico. Cioè noi stiamo continuando ad assistere a sprechi. Da me un pasto in ospedale costa 6,50 euro, al sud, lo dice il Ministero, l'ho detto un mese fa, dai 60 agli 80 euro, non ho sbagliato la cifra, dai 60 a 80 euro. Una siringa qua, 6 centesimi da me, 25 centesimi in alcune regioni del sud. Allora, prima di parlare di patto di stabilità, questo paese deve parlare di lotta agli sprechi e di applicazione dei costi dell'amministrazione virtuosa. È una vergogna quello che sta accadendo. Sì, e intanto però, perché poi è questo il tema, intanto liberare le mani di chi è virtuoso, appunto, delle amministrazioni in attivo, perché questo è il tema. Cioè la follia di questo patto di stabilità è esattamente il fatto che se i soldi ce l'hai non li puoi spendere. Come ci diceva Gennari, 4 miliardi e passa nelle casse dei comuni che però sono bloccati, sono fermi là, no? Se tocca ancora a me, poi mi deve scusare, mi scuso con tutti gli ospiti. Sì, ma tanto abbiamo quasi finito. Sì. Ho l'inaugurazione dell'anno giudiziario al TAR alle 9, alle 10, scusi. Sì. Dico semplicemente che la partita è una partita che si può risolvere. Se mancano risorse, ripeto, si abbia il coraggio di applicare i costi della pubblica amministrazione virtuosa. E comunque si allenti il patto di stabilità per chi è virtuoso. Io ho il bilancio della sanità, sono la prima regione d'Italia e chiudo in attivo, cioè la sanità del Veneto produce reddito. Non capisco per quale motivo io debba essere punito come chi ha miliardi di buchi nella sanità. Tavani, Antonio Tavani, grazie Zaia, buona giornata. Antonio Tavani, appunto, vicepresidente della provincia di Chieti, che insomma, ci ha chiamato lui, vogliamo risentirlo proprio su questo. Io immagino che la vostra condizione non fosse la stessa del Veneto dal punto di vista dei conti, insomma, no? Prima di quello che è successo. Ma no, la situazione non è questa, però io non amo le generalizzazioni che al nord vadano bene le cose e al sud non vadano bene. Non partiamo con questa cosa. Però voglio dire, la regione Abruzzo è venuta fuori da un debito sanitario in maniera straordinariamente positiva e credo che oggi possa dimostrare di essere una regione virtuosa e credo non facciamo parte del nord. Invece io credo, cioè ritengo che quello che diceva Del Rio è molto importante, cioè in Italia oggi c'è bisogno di azioni straordinarie, lui ha parlato di azioni una tantum, vedete, non è correggendo leggermente i numeri o il cuneo fiscale, come diceva il ministro prima, che può ripartire questa nazione, c'è un problema di coesione sociale importante, io credo che ci sia la fase più drammatica che vive l'Italia e in questo momento ci sia bisogno veramente di interventi straordinari, cioè lo Stato deve tornare a fare lo Stato e le banche devono tornare a fare le banche e la pubblica amministrazione deve tornare a fare la pubblica amministrazione evidentemente con i costi, con il controllo dei costi a cui accennava il Presidente della Regione Veneto che nel passaggio che io condivido perfettamente, non è possibile che su uno Stato nazionale piccolo in realtà come l'Italia la siringa possa costare diversamente da destra a sinistra o da sopra a sotto, questo sì, però vi voglio dire, vi ho raccontato la questione del patto stabilità della provincia di Chieti, qui pagano tutti, pagano le imprese, pagano gli amministratori, probabilmente anche con responsabilità patrimoniali. In realtà non paga il sistema della pubblica amministrazione, dirigenti, funzionari, lobby pubbliche, purtroppo corporazioni che si sono sviluppate negli ultimi 30-40 anni nelle pubbliche amministrazioni e questo insomma è un dato che deve far riflettere. Tavani, siamo in chiusura. Massimiliano che su Twitter dice ogni politico che sento dice che è una vergogna la differenza di coste tra nord e sud, ma cosa impedisce l'allineamento? Massimiliano, confermo, è una cosa, l'ho già detto anche a questi microfoni, che fa impazzire pure me, non riesco a capire come non si riescano ad allineare questi costi. Grazie Laura Faggin in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, le ragazze del Centralino come sempre non mi avete scritto i nomi, vergogna su di voi, intanto ci fermiamo, grazie anche ai nostri ospiti e buona giornata, ci risentiamo lunedì. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due.